Focus Economia. Le 17 e 10 minuti, buonasera gentili ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia da Simone Spezia. Sono molti i temi di oggi, a partire naturalmente da quel che avete già sentito nel nostro giornale radio, ossia la coda delle dichiarazioni di ieri di Sergio Marchionne, intervenuto nella trasmissione di Fabio Fazio. Naturalmente dichiarazioni che hanno scatenato un profluvio di altre dichiarazioni, questa volta politiche. Vedremo di fare un attimo il punto sulla vicenda Fiat. In una giornata borsistica, quantomeno, che ha veramente due facce, nel senso che da un lato ci sono i bancari che, dopo l'annuncio dell'aumento di capitale da parte del Banco Popolare per 2 miliardi di euro, notizia peraltro anticipata, come saprete, da Radio 24 nel corso del fine settimana, un mercato che fa crollare praticamente tutte le banche, il Banco Popolare su tutti che cede il 5,30%, il Monte dei Paschi a seguire che lascia sul terreno il 3,3% sulla scorta delle indiscrezioni secondo le quali, poi smentite dall'azienda peraltro, secondo le quali lo stesso Monte dei Paschi potrebbe aver bisogno di una ricapitalizzazione, poi Intesa San Paolo giù del 3,10, UBI del 2,5%, la Popolare di Milano del 2,38%. L'altra faccia invece è, dopo la salita di LVMH in Hermès che è arrivata sopra il 14%, il settore del lusso che va tutto bene, a partire da Bulgari che guadagna il 3% e passando per Luxottica che guadagna l'1,82%, bene fa anche Geox con un guadagno dell'1,41%. Gli indici sono comunque negativi e succede praticamente sempre quando vanno male le banche: meno 0,64% sul FTSE MIB, meno 0,48% sul FTSE All Share, mentre un pochino meglio fanno le altre piazze finanziarie europee. Nel frattempo, per quanto riguarda invece l'America, il Dow Jones guadagna mezzo punto percentuale, il Nasdaq lo 0,60%. Gli altri argomenti che toccheremo naturalmente sono gli esiti del G20, che si è occupato, come sapete, di valute. Alla fine ne è uscito un comunicato, a dir la verità, abbastanza generico, che non ha risolto evidentemente i problemi di fondo e forse non ce lo si aspettava nemmeno. E poi parleremo di leadership rosa, se così possiamo dire, ossia di quote rosa nelle aziende. Come sapete, il dibattito è aperto, c'è una legge che probabilmente arriverà all'approvazione che riguarda le donne nei consigli di amministrazione. C'è chi insorge e dice no, non va bene, perché stabilire quote rosa vorrebbe dire non premiare il merito, lasciamo che insomma si premi solamente il merito. Il dibattito è aperto, sentiremo due opinioni in campo. Tutto questo tra poco. Il numero per gli SMS, come sempre, per le vostre domande, è 349-238-6666. Le notizie in breve di questa giornata. Il petrolio a New York ha aperto in rialzo, $82,57 al barile, il guadagno è dell'1,1%, in guadagno anche l'oro, altro tema questo, quello delle materie prime, un più 0,8%. Altro tema che non toccheremo oggi, ma che sicuramente saremo in grado di toccare nei prossimi giorni. Per quanto riguarda le valute, appunto, il dollaro ancora giù, almeno a Tokyo, è scivolato ad 80,45 yen, si registra invece un cambio tra euro e dollaro che è ancora vicino a quota 1,40, 1,39 e 78 per essere esatti. Dall'America arrivano segnali apparentemente positivi, il balzo delle vendite di case a settembre, le case esistenti e quindi non quelle nuove, del più 10%, le previsioni degli analisti erano per un rialzo del 4,1% e invece il ritocco all'ingiù per le vendite di agosto con un più 7,3% contro il precedente più 7,6%, un ritocco all'ingiù quindi non particolarmente pronunciato. Peraltro il presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, ha fatto sapere che la Fed e gli altri organi di vigilanza americani stanno esaminando accuratamente le pratiche dei pignoramenti immobiliari effettuati dalle banche. I risultati preliminari verranno resi noti il mese prossimo. Per quanto riguarda l'Europa, la forte ripresa economica della Germania potrebbe spingere la BCE ad alzare i tassi prima possibile, quello che sostiene Standard & Poor's in una nota. È probabile che la Germania continuerà a crescere ad un ritmo più veloce degli altri paesi di Eurolandia e la BCE potrebbe essere tentata di decidere la sua exit strategy dalle misure di stimolo in base appunto alla prestazione economica tedesca. Nel frattempo arriva un'allerta sulle banche belghe. Si apprende che 13 istituti finanziari sono stati messi sotto controllo prudenziale da parte del Comitato sui rischi finanziari sistemici, visto che le loro difficoltà potrebbero rappresentare un rischio per la stabilità del sistema finanziario belga. Ad essere interessate sarebbero le quattro principali banche attive in Belgio, tra l'altro, tra cui per esempio BNP Paribas e Dexia Bank Belgique. Dell'andamento delle banche italiane in borsa ve l'abbiamo detto, tra l'altro il Financial Times ipotizza un taglio delle cedole da parte del sistema bancario italiano per rafforzare il patrimonio in vista dell'operatività delle regole di Basilea 3. Poi approfondiremo naturalmente nello spazio dedicato ai mercati. La vicenda della Torino-Lione, se avremo spazi nei prossimi giorni la tratteremo, perché questo è un altro tema interessante e tipicamente italiano. Allora, se entro Natale non ci sarà ancora un quadro chiaro sulla linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione e non saranno rispettate le condizioni poste da Bruxelles, c'è il rischio che una parte dei finanziamenti vengano soppressi o destinati ad altre grandi opere europee, quanto indicano fonti della Commissione. E poi i dati, anche qua una vicenda altrettanto tipicamente italiana, quella della Campania. La crisi dei rifiuti a Napoli ci sta costando 1,1 miliardi, una ventina di euro per italiano, compresi i neonati, mentre il totale delle emergenze rifiuti pesano in negativo sul bilancio italiano per 24,7 miliardi di euro. Come una manovra finanziaria, quanto emerge da una ricerca realizzata dalla società di consulenza Altesis e presentata in un convegno organizzato dal CONAI, il consorzio nazionale che si occupa del riciclo e del recupero degli imballaggi. Veniamo al primo tema di giornata, ossia la Fiat, o meglio, le dichiarazioni di Sergio Marchionne. A chi ci chiede il cambio dell'euro contro franco svizzero, 1,3573 in questo momento. E a chi già ci dice via SMS al 349-238-6666 evviva Marchionne, aspettate un attimo, adesso lo sentiremo e appunto ne parleremo. A tenere banco appunto sono le dichiarazioni dell'amministratore delegato dell'Ingotto, intervenuto appunto alla trasmissione di Fabio Fazio, Che tempo che fa. Tra poco le ascolteremo, io intanto saluto il professor Carlo Scarpa, docente di economia politica all'Università di Brescia. Professor Scarpa, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, le chiedo un attimo di pazienza, perché così queste dichiarazioni di Marchionne ce le ascoltiamo, ce le riascoltiamo insieme e poi facciamo un attimo un punto su quello che ha detto l'amministratore delegato di Fiat. E allora, iniziamo dalla questione degli stipendi, perché anche questo è stato un tema interessante che forse è stato in parte sottovalutato, quantomeno nei titoli quelli grandi dei giornali oggi, ossia che Marchionne ha detto... Sì, ha detto tutto quel che ha detto sull'Italia e che trovate, insomma, senza l'Italia faremmo meglio, eccetera, eccetera, e però dice: il mio obiettivo è portare gli stipendi a livelli dell'estero. Il vero problema non è la riduzione delle pause e la competitività del sistema della Fiat, del sistema industriale italiano verso i nostri concorrenti. E non parlo di Cina, di India, parlo di paesi che sono molto più vicini a noi come la Germania, la Francia, l'Inghilterra. L'ultima analisi che è stata fatta va a posizionare l'Italia al 117° posto su 139 per quanto riguarda l'efficienza del lavoro. il 48esimo sull'elenco della competitività del sistema industriale. Quindi parliamo di 48, quindi escludiamo tutta l'Europa che ovviamente è prima di noi, escludiamo anche i paesi periferi, in periferia, che sono anche inclusi nei top 48. Quindi non è una buona pagella, no? È una cosa che sta continuando da anni. Se la andiamo a vedere nella serie storica, il sistema italiano ha perso competitività anno per anno da parecchi anni. Se guardiamo negli scorsi 10 anni, l'Italia non è mai stata capace di reggere il passo di innovazione che abbiamo avuto in altri paesi, che è un insieme di cose, non è la colpa del lavoratore. Io non voglio, me la voglio prendere con i nostri collaboratori che sono in fabbrica. Non c'è nemmeno un investitore che viene dall'estero a mettere un euro in questo paese. Queste dimostrazioni che io considero veramente fuori posto, no? di attacchi verso la Fiat, non aiutano a creare quell'ambiente necessario per attirare il capitale estero. Perché la proposta che abbiamo fatto noi è una proposta che è disegnata a dare l'Italia, o perlomeno alla rete industriale italiana della Fiat, la capacità di poter competere a livello proprio di qualità di produzione, di competitività con gli altri paesi da cui siamo circondati. Lasciamo stare Cina e India, parliamo di paesi vicini a noi. In cambio per questo investimento, questo sforzo collettivo che faremo noi e i nostri collaboratori, io sono disposto a guardare, l'ho detto chiaramente, a portare il salario dei nostri dipendenti a un livello che è equivalente di quelli dei paesi che ci sono vicini. Allora, a chi ci chiede se per livelli esteri Marchionne si riferisce alla Polonia, la battuta è buona, però non è esattamente questo quello a cui fa riferimento l'amministratore delegato di Fiat, ma si fa riferimento appunto ai paesi vicini. Tanto per fare un esempio, la media delle retribuzioni lorde annue degli operai in Italia 23.000 euro, in Francia 30.000, un più 30%, Austria e Svizzera 36.000, Germania 42.000, un più 80% circa rispetto all'Italia. Allora, ascoltiamo anche la frase incriminata, quella che tanto ha fatto discutere e che riguarda appunto l'Italia. Oltre a dire senza l'Italia faremmo meglio, dice il debito con il paese l'abbiamo sostanzialmente ripagato. Noi abbiamo appena rilasciato i dati della trimestrale giovedì scorso e abbiamo annunciato che faremo circa 2 miliardi, più di 2 miliardi di utile operativo nel 2010. Nemmeno un euro di quei due miliardi è fatto in Italia. Siamo ancora in perdita. Cioè, lei sta dicendo che volendo Fiat potrebbe fare a meno dell'Italia? Io le sto dicendo che se dovessi togliere quella parte italiana dei risultati, la Fiat farebbe di più. Avrebbe fatto di più l'anno scorso, lo sta facendo adesso. Quindi uno non può gestire delle operazioni in perdita per sempre. La maggior parte dei nostri concorrenti avrebbero trovato la porta d'uscita, no? Avrebbero trovato un metodo per sfilarsi dal sistema, cioè andare a lavorare andarsene altrove. No? Io non voglio nemmeno ricevere un grazie, ma non voglio nemmeno essere accusato continuamente di ricevere assistenza statale, perché non è affatto vero. Negli scorsi 6 anni e mezzo noi non abbiamo ottenuto niente, siamo stati l'unica azienda in Europa nel 2009 e nel 2008 che non è andata dal governo a bussare alle loro porte e chiedere assistenza finanziaria. L'hanno fatto i francesi, l'hanno fatto i tedeschi e la Fiat è stata l'unica azienda che ha retto da sola. Gli incentivi sono soldi che vanno ai consumatori, cioè a chi compra le auto. Non aiutano me parzialmente, ma in Italia 7 su 10 macchine vengono comprate sono straniere. Il vero ringraziamento bisognerebbe darla ai francesi e ai tedeschi per aver invaso il paese e aver venduto 7 su 10 macchine. Così dunque Sergio Marchionne, a dir la verità poi non è che abbia detto cose nuovissime, sono discorsi che da Marchionne abbiamo già sentito, insomma, su quanto contribuisce effettivamente l'Italia all'utile della Fiat. Allora, professor Carlo Scarpa, appunto docente di economia politica all'Università di Brescia, Marchionne ce lo siamo riascoltato, io le chiederei innanzitutto un suo giudizio generale, in particolare poi verremo alla questione degli stipendi, che è anche interessante, dei salari degli operai, in particolare su questo tema qua. Insomma, mi sembra abbastanza chiaro anche i dati che circolavano oggi sui giornali, insomma, nei 5 stabilimenti Fiat, e andiamo a prima della crisi, si producevano 40 auto per dipendente, in Polonia il rapporto è di 100 auto per addetto, in Brasile 77 auto per dipendente. Insomma, ha le sue ragioni l'amministratore delegato di Fiat, no? Ma per certi versi assolutamente sì, per altri versi è evidente che Fiat ha ricevuto tanti quattrini dallo Stato italiano, ha anche dato tanto, fare il conto del dare e dell'avere è estremamente difficile. Il problema però, e questo è il grosso interrogativo che continua a tormentarmi, è chi gliel'ha fatto fare a Fiat di tirare fuori quel piano Fabbrica Italia, che fin dall'inizio francamente è sembrato un libro di belle speranze ma con pochissimo futuro. Questa è la cosa che capisco meno. E perché dice questo, professore? Insomma, alla fine è, voglio dire, se il progetto, come dire, di innovare le relazioni sindacali, di innovare appunto il rapporto con i sindacati, anche il metodo di produzione funziona, perché l'Italia sì, perché l'Italia no, diciamo così, e come dire, altri grandi produttori restano nei loro paesi d'origine? Allora, il progetto Fabbrica Italia mi era sembrato una cosa un po' strana, proprio perché era una scommessa enorme, cioè era una cosa che poteva stare in piedi se si fossero veramente modificate in modo radicale, per effetto della sulla richiesta della Fiat, della contrattazione con i sindacati, tutte le relazioni sindacali che riguardano la Fiat con i suoi lavoratori, che è un'impresa che mi è francamente sembrata titanica. Quello che Marchionne diceva, senza l'Italia noi avremmo i conti maggiormente floridi, beh, è noto, ma infatti è difficile capire per quale ragione avessero un piano che secondo me non ha un grande sbocco. Infatti Fabbrica Italia fatica a decollare a Pomigliano, a Mirafiori non si capisce bene cosa succederà, però è evidente che sta andando avanti invece il piano della Fiat in Serbia. Cioè, alla Fiat oggettivamente oggi conviene andare a produrre altrove, su questo credo che Marchionne non abbia detto assolutamente nulla di nuovo e nulla di illegittimo, direi. Ha ragione l'ascoltatore che ci scrive: in Polonia e Brasile fanno macchine piccole, non la 159, è normale farne di più, ma anche negli stabilimenti dove si fanno utilitarie la produttività è più bassa rispetto a quella di questi paesi, e ci riferiamo a Polonia e Brasile in particolare. Professor Scarpa, sulla questione dei salari, questo è un problema storico, naturalmente probabilmente stiamo ragionando su salari lordi naturalmente, e quindi con tutte le differenze fiscali del caso, insomma, che tra l'altro in realtà spesso favoriscono i lavoratori negli altri paesi, nei paesi dei quali stiamo parlando. E però anche là, a questo punto, mi sembra di capire che secondo il suo giudizio è una sorta di libro dei sogni. Ma diciamo che sarebbe bello aumentare i salari qualora ce ne fossero le condizioni. Questo è quello che dice Marchionne. Il problema è come si creano queste condizioni. In particolare bisognerebbe aumentare la produttività, giustamente si diceva, non solo in termini quantitativi, non è solo un problema di quante auto vengono prodotte, è anche un problema di quale valore aggiunto queste auto hanno. Se Fiat è specializzata, come è da sempre il caso, in auto della fascia medio-bassa, è evidente che va a competere in un segmento nel quale il valore aggiunto è abbastanza basso, dove la competizione si fa spesso sul prezzo piuttosto che non su altro, o quantomeno è più sul prezzo di quanto non avvenga in altre fasce del mercato, per cui chiaramente lì i costi contano veramente tanto. I produttori tedeschi si possono permettere dei salari diversi, anche perché le auto tedesche hanno un valore aggiunto, quindi contemplano dei margini notari che sono più alti di quelli che sono normalmente possibili della Fiat. Un'ultima domanda, professore. Secondo lei questo intervenire in maniera abbastanza insistita, a dir la verità, sulla scarsa capacità produttiva degli impianti italiani, non è forse anche un modo, pur senza farlo esplicitamente, di bussare alla porta della politica, insomma di chiedere un intervento, se non economico naturalmente, se non sul fronte degli incentivi, certamente sul fronte della mediazione al governo? Forse la mediazione potrebbe essere sufficiente, però il problema è questo: se a Pomigliano si continuano a produrre delle auto con un valore aggiunto abbastanza basso, o la produttività esplode oppure i conti di Fiat non tornano, a meno che non ci sia qualcuno che mette sul tavolo dei soldi. Io non credo che Marchionne stia bussando veramente alla porta del governo, però secondo me o il governo riesce a metterci dei soldi, non so dove li potrebbe andare a prendere con le aree che tirano, oppure faccio veramente fatica a capire come potrebbero quadrare i conti di Pomigliano in particolare, data l'attuale situazione. Grazie per le sue franche opinioni al professor Carlo Scarpa, docente di economia politica all'Università di Brescia. Buonasera professore. Buonasera a voi. A chi ci scrive che la produttività è bassa perché hanno fatto cassa integrazione, vi diciamo che abbiamo fornito i dati pre-crisi, che erano 40 auto per addetto. I dati post-crisi parlano di 29 auto per addetto, insomma, diciamo, parlando appunto con, inserendo in questo la cassa integrazione. Le dichiarazioni politiche sono tante, ve ne daremo conto tra un attimo, subito dopo il meteo, e sentiremo anche la voce del ministro Brunetta. Le 17:37 minuti, mentre continuano a piovere sms appunto sulle parole di Marchionne di vari segni opposti, c'è chi dice che fa esclusivamente gli interessi degli azionisti, ci mancherebbe altro, un amministratore delegato di un'azienda che naturalmente deve fare utili. Noi andiamo brevemente alle reazioni politiche, quelle di Gianfranco Fini le avete sentite anche nel giornale radio. Mi sembra che Marchionne abbia dimostrato di essere un po' più canadese che italiano, visto che è italo-canadese, ha detto una cosa che sarebbe normale se detta da uno che non è un top manager italiano, ma è un po' paradossale che lo dica l'amministratore delegato della Fiat. Così invece il ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta. Marchionne ha visto con alcune battute il bicchiere mezzo vuoto, è bene ricordargli anche il bicchiere mezzo pieno, vale a dire come la maggioranza ad esempio dei lavoratori si sia espressa per nuove relazioni industriali, come il governo abbia trattato sugli ammortizzatori sociali in deroga e come tratterà il problema della produzione automobilistica in Italia, come il fatto che in forma assolutamente maggioritaria il paese si sia espresso per più efficienza, maggiore produttività, più investimenti anche per il settore automobilistico, come il Paese abbia sostenuto Marchionne e la Fiat nella vicenda Chrysler. Pertanto per noi la Fiat è un pezzo della storia d'Italia, ma del futuro dell'Italia, è un pezzo della cultura industriale italiana e come tale va trattato. Da economista dico che se per una multinazionale in una congiuntura economica particolare un pezzo di quella multinazionale non dà profitti, non è che si chiuda quel pezzo, non è che si chiuda la produzione di automobili, tra l'altro che non danno profitti in tutta Europa. Si cercano i modi, investimenti soprattutto, tecnologie, investimenti per rendere nuovamente profittevole anche quel pezzo. Ed era il ministro Renato Brunetta al microfono di Nicola Filippone dell'agenzia di stampa Radio Corre, Il Sole 24 Ore. Pierluigi Bersani, quale modello per fare auto abbiamo in testa? La Cina e la Serbia o la Germania e la Francia? Dice non possiamo diventare cinesi. E ancora Epifani, Marchionne parla come se volesse andare via, così il leader della CGIL in un colloquio con Repubblica. E poi Bonanni, sfido Marchionne sui profitti ai lavoratori. Arriviamo al pieno utilizzo degli impianti in cambio non solo del salario di produttività ma anche della ripartizione degli utili e si arriva ad un livello alto di partecipazione alle decisioni aziendali. Ancora molti sms arrivano sul tema Fiat, tra cui la questione dei nuovi modelli. L'abbiamo affrontata più di una volta, cioè il fatto che ultimamente la Fiat non ne abbia mandati fuori e questo sia parte della crisi. È il momento della borsa. Ciao Condina, Radio Corre, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, in apertura dicevamo che è stata effettivamente sul listino principale, ci riferiamo al FTSE MIB naturalmente, una giornata veramente a due facce, nel senso che da un lato ci sono stati i titoli del lusso che sono andati molto bene, dall'altra le banche che invece sono andate molto male. Sì, diciamo che le banche, dopo l'annuncio del Banco Popolare che dovrà fare un aumento di capitale di 2 miliardi di euro, sono andate veramente giù a rotta di collo sul listino già dalle prime battute. Alla fine il bilancio è molto pesante, il Banco Popolare lascia sul terreno il 5-6%, MPS meno 3-4%, l'Istituto Senese è un'altra banca per cui gli operatori questa mattina vociferavano un aumento di capitale comunque poi smentito dalla stessa MPS. Intesa San Paolo meno 2-6%, Popolare di Milano meno 2-3%, insomma dopo tutti i rialzi di settimana scorsa quando Citigroup aveva promosso l'intero comparto bancario italiano, oggi sono arrivati i realizzi. Come dicevi giustamente tu, invece il lusso ha fatto da contraltare a questo andamento delle banche dopo la mossa di LVMH in Francia che ha rilevato il 14% del capitale di Hermès, accendendo un po' insomma i riflettori su tutto il comparto del lusso europeo. Oggi si sono visti i risultati a Piazza Affari con Bulgari che è avanzata del 2,93% e Luxottica del 2,2%. Bulgari, ricordiamo che comunque è un titolo che da diverse settimane è sotto i riflettori degli operatori e continua ad aggiornare i massimi degli ultimi due anni. Sì, si diceva di Bulgari e Luxottica sono tra i migliori, c'è anche l'Automatica che guadagna un 2,70%, ST Microelectronics l'1,98%, Ansaldo l'1,85%, Geox anche l'1,41%, Mediolanum l'1,39%, ebbene Pirelli un guadagno dell'1,38%, qua ci sono novità, CEO. Sì, qui ci sono le dichiarazioni rese da Marco Tronchetti Provera al Financial Times. Tronchetti Provera sottolinea ancora la possibilità sempre più concreta di un investimento in Messico, conferma il fatto che uno dei focus del business della società sarà l'America Latina, l'ha fatto con una particolare convinzione, quindi gli operatori hanno ritenuto opportuno premiare il titolo in borsa. Allora, veniamo all'ex Pirelli Real Estate, Prelios, bene anche qua, no? Sì, Prelios è una notizia di cui Radio Corre aveva dato conto già alla fine di settimana scorsa. Via libera un maxi rifinanziamento da oltre un miliardo su dei portafogli residenziali in Germania. Diciamo, oggi c'è stata l'ufficializzazione del rifinanziamento della ex Pirelli Re, un evento favorevole, rifinanziato a tasse di mercato l'indebitamento e quindi si può guardare con più fiducia al futuro per la società. A chi ci chiede di Unicredit, che tra i bancari forse per un attimo ci è sfuggito, il calo è dello 0,79%, quindi lievemente meglio rispetto agli altri, mentre invece un titolo un po' di nicchia, diciamo così, c'è, ossia la Lazio. Sì, la Lazio addirittura sospesa già dall'inizio della seduta per eccesso di rialzo, alla fine è dovuto comunque entrare in contrattazione seppur nelle battute finali e ha chiuso con un rialzo del 24%. In questo caso, come tutti sappiamo, ieri la Lazio ha ancora vinto in campionato, ha aumentato il distacco in classifica sull'Inter e che ne dicano l'allenatore, insomma i giocatori, il mercato crede se non altro in un brillante girone di andata. Benissimo, vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni. Per quanto riguarda la Lazio, ringrazio intanto Ceo Condina di Radio Cuore il Sole 24 Ore. Buonasera, grazie Ceo. Grazie a voi, buona serata. E vi do anche gli altri titoli naturalmente a chi già ci chiede di Fiat, comunque Tenaris più 1,07%, bene Finmeccanica un punto percentuale di guadagno, Fiat appunto più 0,82%, bene Saipem che guadagna lo 0,60%, lo 0,4% in pregilo, Terna lo 0,3%, poco più dello 0,2% Campari, Snam Rete Gas e Generali, CIR in guadagno dello 0,18%, Prismia dello 0,07%, perfetto pareggio per Unipol, anche Eni poco mossa così come Exor, Fondiaria assai ed Enel tutti in calo ma tra lo 0,6 e lo 0,12%, così come dello 0,13 scende Azimut, Atlantia dello 0,19, Mediaset dello 0,20, giù dello 0,3 Buzzi Unicem, A2A dello 0,4, di mezzo punto percentuale Parmalat, Autogrill dello 0,69, Mediobanca dello 0,75 e degli altri tra quelli che non vi abbiamo dato, Italcementi in calo dello 0,86, Telecom Italia dell'1,38%, Euro che quota 1,39,82 contro dollaro ed è proprio di valute che parleremo dopo la viabilità. 17:48 minuti, vi dobbiamo dar conto naturalmente, appena battuto dall'agenzia di stampa Radio Cori il Sole 24 Ore, dei dati diffusi da Luxottica, più 34% l'utile netto nel terzo trimestre a 101 milioni, più 28% l'utile nei 9 mesi e l'amministratore delegato Guerra che dice per fine anno puntiamo ad un utile di 400 milioni. E Luxottica lancia un bond da 500 milioni di euro entro il gennaio 2011. Questo è quello che abbiamo per ora, che sono solamente appunto flash di agenzia. E veniamo al nuovo tema, appunto la cosiddetta guerra delle valute. Per quanto riguarda i dati di questa mattina e per gli amanti dei record, c'è stato un nuovo crollo del dollaro a Tokyo, scivolato 80,45 yen ai minimi dal 19 aprile 1995, parliamo circa di una quindicina d'anni. Qual è il punto? Che gli investitori hanno visto un esito della riunione del G20 della finanza che si è chiuso senza misure concrete né per arginare il crollo del dollaro né naturalmente per contenere la svalutazione cinese. Saluto Riccardo Sorrentino del Sole 24 Ore. Buonasera, buonasera Riccardo. A tutti. Che si occupa di questi temi e che oggi firma un pezzo sulla guerra delle valute sul Sole 24 Ore del lunedì, che da oggi esce in edizione rinnovata, un pezzo mi sembra di capire Riccardo che non dà molto chiaramente l'uscita dal tunnel, cioè difficile la visibilità in questa fase. Sì, è molto difficile, del resto l'esito del meeting del G20 e i dati di oggi del mercato valutario con il minimo storico, minimo da 15 anni del dollaro lo dimostrano. Non è facile perché non si tratta semplicemente di governare le valute, ma si tratta di cambiare quello che c'è dietro, e quello che c'è dietro sono delle politiche monetarie imposte da una situazione oggettivamente difficile in tutti i paesi, a cominciare dagli Stati Uniti, che governano le valute. Fino a quando non ci sarà un cambiamento delle politiche monetarie che si muovono dietro ai mercati valutari, e fino a quando queste politiche monetarie non precederanno un accordo, non ci potrà essere un vero coordinamento internazionale, che però è richiesto a gran voce non soltanto dai vari attori ma anche dalla situazione. Allora, l'impressione che abbiamo avuto noi in questa che appunto è stata definita la guerra delle valute e che ha portato al G20 di questo fine settimana, G20 che possiamo dirlo tranquillamente sostanzialmente non ha concluso niente, l'impressione o molto poco, insomma l'impressione che ne abbiamo tratto noi è questo, di quel che è successo nell'ultimo periodo, che a fronte di una Cina che sostanzialmente tiene artificialmente bassa la sua valuta, gli Stati Uniti, non potendo trovare un accordo, hanno deciso sostanzialmente di fare altrettanto. Ma sì, in un certo senso sì, c'è sicuramente un problema cinese perché, come hai giustamente detto, mantiene artificialmente ferma la propria valuta nei confronti del dollaro, e questo crea problemi a tutti, crea problemi agli americani naturalmente perché in teoria lo yuan dovrebbe salire, ma crea anche problemi a tutti gli altri perché se il dollaro scende, lo yuan scende insieme al dollaro nei confronti di tutti. C'è un grosso problema anche però dall'altra parte. Gli Stati Uniti hanno una responsabilità internazionale molto forte, perché la loro valuta è la valuta mondiale, quella per intenderci con la quale si paga il petrolio, gran parte delle materie prime e così via. Hanno fatto la scelta di seguire una politica monetaria estremamente aggressiva, che manda in tutto il mondo una serie di ondate di volatilità, di disordine sui mercati. Perché questo è molto forte ed è anche stato calcolato. L'effetto che ha sulle borse, per esempio, dei paesi emergenti è fortissimo, sulle borse brasiliane, sulla borsa di Hong Kong, sulla borsa sì, di... il real mi sembra si sia rivalutato addirittura del 33% nell'ultimo periodo. Assolutamente sì, il real è proprio, infatti non a caso la parola che è guerra, la valuta brasiliana. Esatto, la parola guerra delle valute è stata pronunciata per la prima volta in Brasile, perché proprio il Brasile in qualche modo si sta mostrando l'anello debole di tutta questa situazione. Gli Stati Uniti quindi mandano queste tensioni fortissime e in qualche modo scaricano all'esterno quelle che sono i loro squilibri, con il rischio che si creino delle bolle proprio in questi paesi emergenti. Naturalmente, tanto che addirittura, se non sbaglio, la governatrice della Banca Centrale Sudafricana qualche giorno fa ha detto: cedo le armi, cioè non sono più in grado di intervenire per fermare il Rand. Allora, ti chiederei a questo punto se il vaso di coccio siamo noi. Cioè, se lo è l'Europa, perché è chiaro che i problemi per le economie come le nostre, prevalentemente o fortemente orientate all'export, che si ritrovano con un euro in risalita del 17% sul dollaro dai minimi del 2010, sono assolutamente evidenti. Siamo il vaso di coccio? La BCE ha aria di intervenire oppure no? L'euro corre sempre il rischio di essere un po' col vaso di coccio, lo è stato soprattutto in passato, adesso un po' meno, nel senso che è la valuta che sale quando tutte le altre scelgono, per tutta una serie di motivi, a cominciare dal fatto che è la seconda grande valuta che si muove liberamente. In cui un certo senso l'Unione Monetaria Europea non ha una politica valutaria. E quindi è successo che appunto nel 2008, quando già cominciavano a gonfiarsi tutta una serie di squilibri, l'euro era 1,60 sul dollaro e adesso è all'1,40. Quello che ci salva, tra virgolette, è un po' di timore da parte degli investitori per la situazione fiscale di una serie di paesi, la Grecia. Beh, è quasi un paradosso. Siamo salvati dal fatto che... un paradosso tra uno dei tanti che poi si crea in un'economia dove ogni fenomeno ha aspetti positivi e aspetti negativi. Sì, appunto, quasi salvati dal fatto che la condizione dei bilanci pubblici di una serie di paesi, insomma, non sia particolarmente buona. Naturalmente senza considerare che la condizione del bilancio pubblico americana al momento non è certamente particolarmente favorevole, insomma, sia sul fronte del deficit commerciale che su quello. Assolutamente no, però loro hanno la moneta di riferimento internazionale, per cui in qualche modo se lo possono permettere. Naturalmente. È un grande privilegio questo che hanno. E si possono in qualche modo salvare. Bene, io ringrazio Riccardo Sorrentino del Sole 24 Ore per essere stato con noi. Naturalmente nel quotidiano oggi in edicola trovate appunto questa analisi sulla guerra delle valute che vi può dare un quadro abbastanza chiaro. Sono le 17:55 minuti e 47 secondi, c'è naturalmente la pausa per il giornale radio, ci ritroviamo subito dopo e parleremo di quote rosa. Le 18:07 minuti 25 secondi, buonasera gentili ascoltatori, benvenuti e bentornati a Focus Economia. La borsa americana, il Dow Jones guadagna 0,5%, il Nasdaq lo 0,61%, vi riepilogo la chiusura di Milano, il FTSE MIB ha ceduto lo 0,47%, il FTSE All Share lo 0,31%, trascinati al ribasso soprattutto dalle banche. In merito alla questione delle valute, a Federico che ci scrive: non è una questione valutaria ma lo specchio di un nuovo assetto geopolitico multipolare, diciamo può darsi. E invece esprimiamo dubbi a chi ci scrive: la moneta unica ha distrutto tutte le economie europee. Carina invece la battuta: il Real si è rivalutato da quando è arrivato Mourinho. Noi però cambiamo argomento e parliamo di occupazione femminile e della cosiddetta leadership femminile. Sono stati questi i temi al centro del forum Cultura d'Impresa organizzato dal Sole 24 Ore, che ha messo a confronto le esperienze di oltre 500 manager italiane e straniere. Ad aprire i lavori Donatella Atreu, amministratore delegato del gruppo 24 Ore, ma noi ce ne occupiamo affrontando un tema ben specifico, quello delle quote rosa. Saluto allora innanzitutto Alessandro De Nicola, presidente della Adam Smith Society. Buonasera. Buonasera. E saluto anche Cristina Finocchi-Machne, consigliere d'amministrazione di PMS Group e membro del comitato direttivo della Fondazione Belisario. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, se non erro, tra l'altro, PMS è la prima società quotata in borsa con un CDA a maggioranza femminile, ci corregga se sbagliamo. È corretto, benissimo. Allora, il tema delle quote rosa è un tema naturalmente di grandissimo dibattito all'interno dei, soprattutto per il discorso all'interno dei consigli di amministrazione. Come si sa, la Norvegia, che è un paese molto avanzato da questo punto di vista, ha approvato una legge apposta. C'è chi, come se non erro il professor De Nicola, critica questi interventi dello Stato. Professor De Nicola, ci spieghi perché. Le quote rosa sono ingiuste, inefficienti e ingestibili. Perché sono ingiuste? Sono ingiuste come è ingiusto qualsiasi schema gestito da un legislatore illuminato che pensa di sapere meglio della società, meglio degli individui, quali sono le giuste composizioni non solo dei consigli di amministrazione ma di qualsiasi realtà umana ed aziendale. Non c'è nessuno che ha una posizione privilegiata sul mondo da poter sapere quant'è una percentuale giusta di composizione di alcunché. Lo Stato fallisce perché gli esseri umani falliscono e quindi non c'è alcuna legittimità da parte dello Stato di decidere chi deve fare qualche cosa solo perché appartiene a un genere, a una razza, a una religione o qualsiasi altra cosa. Sono inefficienti per due motivi. Prima di tutto perché coloro i quali sono selezionati nelle quote verranno invariabilmente viste come dei raccomandati e non come delle persone brave. Quindi ci sarà il paradosso che uno bravo che entra in quanto parte di una quota viene visto come uno che non è bravo, ma che è lì semplicemente un raccomandato. Un po' come sono quelli raccomandati dai partiti politici che sono nei consigli di amministrazione. Magari sono bravi, però se sono lì in quanto lottizzati verranno visti sempre come così, dei raccomandati. In più sono inefficaci perché non è dimostrato da nessuna parte che avere delle quote rosa migliora l'efficienza. Un conto è dire che le società che hanno una forte presenza femminile in genere vanno un po' meglio, ma anche qui la letteratura è molto discorde. Vi posso citare montagne di studi che non danno evidenze conclusive, ma in ogni caso si parla di scelte volontarie e quindi la presenza di donne potrebbe essere l'effetto, non la causa del fatto che la società è ben gestita. Allora, professor De Nicola, io la fermo, vedo già Cristina Finocchi-Machne che freme per risponderle. Intanto le faccio una domanda io. Allora, ed è una domanda basata su qualche dato, no? Sul totale degli amministratori delegati, in Cina sono donne il 39%, negli Stati Uniti il 20%, in Europa il 12%, in Italia il 4%. Le dirigenti in Italia sono il 13% del totale, questo a fronte di un 55% di donne laureate. Allora, io capisco il suo ragionamento dal punto di vista puramente idealistico di un vero mercatista, di un vero liberale. Dall'altra parte però è vero che il problema c'è e in qualche caso lo Stato deve intervenire per regolare il mercato. Lo Stato deve intervenire per far sì che tutti abbiano la possibilità di scegliere bene. Quindi, ad esempio, se il problema è quello di far sì che gli individui, gli esseri umani, non gli uomini e le donne, possano scegliere meglio la loro proiezione familiare, lo Stato deve aiutare a fare gli asili nido o dare dei buoni scuola in modo che la gestione familiare sia facilitata. Il fatto che ci siano molte più laureate donne che uomini e non ancora abbastanza amministratori delegati deriva semplicemente dal fatto che la percentuale alta di donna che c'è adesso è di donne giovani. 30 anni fa non c'erano donne magistrato, oggi sono il 50%. 30 anni fa c'era il 10% di donne medico, oggi sono il 50%. Lo stesso vale per gli avvocati, per i notai e così via. Quindi è chiaro che siamo in presenza di una società in evoluzione. Sì, quindi lei dice in sostanza facciamo evolvere la società e con i suoi tempi si arriverà al punto giusto. Ci scrivete, le quote rosa sono nient'altro che ipocrisia, ha ragione il professore. Cristina Finocchi Magne, che è di opinione invece completamente diversa, le chiedo ancora un attimo di pazienza, ci fermiamo per le notizie per chi viaggia e la faremo rispondere. I messaggi arrivano anche di segno opposto, ci dice Davide da Padova, le quote rosa sono la medicina per il cambiamento, così hanno fatto in Norvegia, quindi restiamo su questo tema e cedo la parola appunto a Cristina Finocchi Magne, che è consigliere d'amministrazione PMS Group e membro del comitato direttivo della Fondazione Bellisario, che deve una risposta al professor De Nicola. Prego. Ma la prima è una provocazione, nel senso che per esempio nel convegno di oggi è stato sottolineato come le competenze adeguate per un consiglio di amministrazione potrebbero trovarsi nell'intorno dei 45-60 anni, perché naturalmente serve un'esperienza, no, precedente per poter poi essere efficace all'interno di un consiglio di amministrazione. Era la domanda però che rivolgo al professor De Nicola è: secondo lei, fra tutte le donne che ci sono in Italia con competenze non significative dai 45-60 anni, non c'è un numero adeguato di donne che possa appunto stare nei consigli? Nel senso che se non ci sono vuol dire che, se non sono nei consigli, non sono nei consigli, vuol dire che non ci sono donne con quelle competenze. Le rispondo io prima che risponda lei, perché insomma sarebbe un'offesa, no, nei confronti appunto di tutta la società italiana, perché in realtà appunto, come sappiamo bene, ci sono. La seconda osservazione è: la legge sulle quote attualmente in discussione in realtà prevede che un 30% dei posti dei consigli di amministrazione sia riservato al genere meno rappresentato, quindi in realtà non è che riguarda le donne, un domani forse riguarderà anche gli uomini. E in secondo luogo, la nostra società è fatta di uomini e di donne. Allora, naturalmente che portano esperienze, no, anche emotive, approcci completamente differenti, ed è giusto che quindi questa rappresentazione avvenga nei vari posti di potere, di influenza, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista economico. Se non ci siamo arrivati è perché effettivamente noi risentiamo di fortissimi stereotipi che naturalmente vanno a influenzare le scelte. Oggi si parlava appunto del bacino al quale attingere evidentemente questi nominativi nel momento in cui dovesse passare la legge, come è passata appunto in altri paesi, non è passata soltanto in Norvegia ma è passata anche in Spagna, in un paese diciamo molto più simile a noi, no? Perché i paesi nordici sappiamo che per cultura effettivamente sono più avanzati da questo punto di vista. Quindi nel momento in cui passa qui dobbiamo sapere, sì, anche questo. È vero anche che la Norvegia è più rodata da questo punto di vista. Certo. Io la volevo stimolare anche sul tema delle performance aziendali, perché il professore ci diceva che la letteratura non è univoca da questo punto di vista. Guardi, io sono assolutamente d'accordo, poi avendo un background totalmente scientifico, cioè totalmente economico-finanziario, i dati devono essere, no, raccolti con le dovute cautele. Però quello che invece si è evidenziato, e ancora oggi sono state portate ricerche piuttosto sofisticate, piuttosto ampie e quindi con un campione particolarmente significativo, che invece i gruppi misti, quindi i team di lavoro anche di vertice misti, hanno ottenuto risultati molto più significativi, quindi performance aziendali molto più significativi. Sono d'accordo, professore De Nicola, effettivamente c'erano delle ricerche che riguardavano anche le performance delle società con consigli di amministrazione, con presenza più significativa femminile. Lì è difficile riuscire a trovare un collegamento diretto, anche perché o le figure femminili hanno dei ruoli all'interno del consiglio di amministrazione operativi, quindi siedono nel comitato esecutivo, no? O se no è difficile capire come possano intervenire direttamente sulle performance aziendali. Però il ragionamento di puro mercato del professore non è sbagliato dal punto di vista ideale. È diciamo vero, così. Guardi, anche io sono una liberista. Tra l'altro si è visto che non è con le leggi, no, che spesso avvengono i cambiamenti culturali all'interno appunto dei vari paesi. Però noi ci siamo resi conto che in tanti anni di dibattiti non si è riusciti ad ottenere quel cambiamento che invece è auspicato peraltro da più parti. E quindi diciamo nessuno ritiene che la legge sia lo strumento principe o quello migliore, ma è sicuramente quello necessario in questo momento per riuscire ad apportare un cambiamento. Dall'altra parte, professor De Nicola, il punto mi sembra anche un altro, che per interventi dei quali parlava lei, ha portato l'esempio degli asili nido, ha portato l'esempio dei buoni scuola, aggiungo io forse una certa cultura aziendale in certi casi refrattaria all'accettazione di forme di lavoro più flessibile da parte delle madri, voglio dire, sono interventi che richiedono non solo denaro, ma probabilmente anche parecchio tempo, mentre invece alla fin fine con una legge le cose si risolvono abbastanza rapidamente. Sì, si risolvono abbastanza rapidamente, ma prima di tutto avremo una legge che è uguale per tutti, quindi in alcune società dove ad esempio la presenza femminile non potrebbe arrivare al 30%, ma perché semplicemente nel consiglio di amministrazione ci sono degli uomini che sono lì da molto tempo, che sono i più adatti per gestire l'azienda, e quindi bisognerebbe mettere a forza dentro delle competenze che non ci sono o che non sono necessarie. Quindi si rischia di fare, come per tutte le cose, uguale per tutti, delle grandi differenze che sono dannose, ripeto. Peraltro in Norvegia, da quando c'è l'obbligatorietà delle quote rosa, il che non vuol dire niente, però la borsa norvegese è andata peggio delle altre borse, il che non prova che le donne facciano andare peggio le aziende, ma sicuramente prova che la presenza del 40% non le fa andare meglio. Perché chi fa andare meglio o peggio le aziende sono gli individui bravi o non bravi. E se noi cominciamo a fare le quote per le donne, entriamo in un loop che non finisce più. Perché scherzando prima con lei, dicevo, i nani e gli obesi sono persone che possono essere di grande intelligenza, ma sono discriminati, perché l'aspetto fisico è discriminatorio. I neri, gli indios, gli extracomunitari, i filippini, sono tutte persone che hanno delle barriere culturali, e che facciamo delle quote per ciascuno di loro. È vero professore, è vero anche che non sono la metà della popolazione, insomma, su questo possiamo ragionare. Se lei prende l'insieme di persone che all'interno di un paese come l'Italia appartiene a un segmento, come dire, non privilegiato, a partire dalle preferenze sessuali, gay, lesbiche, transessuali, a partire dalle minoranze religiose, gli extracomunitari, quelli di pelle diversa, quelli che hanno aspetti fisici minori che incidono, perché gli studi sociologici dicono che è molto più difficile far carriera per un brutto che per un bello, abbiamo dei segmenti piuttosto grossi, ma questo dimostra come le quote mangino se stesse, sono ingestibili, perché se invece del merito individuale si comincia a fare la segmentazione di rappresentatività, non si esce più. Chiarissimo. Invece quello che bisogna fare è creare le condizioni, e le condizioni migliori chi le crea? Il mercato. Perché? Perché se l'azienda è così arretrata e bigotta da non far avanzare le donne brave all'interno del proprio management perché sono donne, è la prima che ci rimetterà è l'azienda, gli azionisti dell'azienda, saranno i primi a essere puniti. È l'azienda stessa, dice lei. Vabbè, devo dire che dopo questi ultimi tempi sul perfetto funzionamento del mercato in generale, diciamo, abbiamo qualche dubbio, professore, ce la conceda come battuta. L'ultima parola a Cristina Finocchi-Machne, che voleva aggiungere qualcosa. Sì, la prima cosa è che effettivamente bisogna comunque distinguere tra le performance borsistiche, lo sa bene il professor Nicola, e le performance aziendali, perché non sempre corrispondono, no? L'abbiamo visto sia nei casi delle bolle, dove appunto non c'era valore effettivo, eppure le quotazioni sono salite, e l'abbiamo visto anche quando ci sono state forti discese, no? Perché non tutte poi sono andate a gamba all'aria le imprese che hanno avuto un corso dell'azione che ha perso molto valore. E io credo sinceramente che ci sia un altro aspetto da tenere in considerazione, cioè il fatto che servono naturalmente per dare maggiore carica, maggiore spinta e quindi favorire, no, il percorso anche al vertice delle donne di modelli. E quindi in questo caso, ancora una volta, questa proposta di legge, che è la legge Golfo qui da noi in Italia, va esattamente in questa direzione. Cioè abbiamo visto che laddove ci sono dei riferimenti è più facile che le persone riescano, motivate adeguatamente appunto, a tirar fuori le capacità che magari fino a quel momento non sono riuscite a dimostrare completamente. E in ogni caso ribadisco, qui non è un tema di capacità, perché è veramente un falso problema, nel senso che abbiamo tantissimi, purtroppo, uomini anche inadeguati che ricoprono quelle posizioni, quindi io il problema me lo sarei posto dall'altra parte, cioè ma come fanno a esserci tutti quegli uomini preparati all'interno dei consigli di amministrazione e neanche pochissime donne, come può essere, no, il 30%, quindi falsissimo problema da questo punto di vista. Io sono sicura che invece, una volta approvata la legge in Italia, riuscirà a portare dei vantaggi che tutti riusciranno a vedere. Benissimo, grazie a Cristina Finocchi-Machne, consigliere d'amministrazione PMS Group e membro del comitato direttivo della Fondazione Bellisario. Buonasera. Arrivederci, grazie. E grazie anche al professor Alessandro De Nicola, presidente della Adam Smith Society. Buonasera, professore. Arrivederci, buonasera. E anche qui, come nel caso del tema che abbiamo affrontato in apertura, ossia le parole di Sergio Marchionne, messaggi di segno opposto tra chi parla di donne di questa generazione intrise di frustrazione, a chi ci dice, una nostra ascoltatrice Cristina, che l'assenza delle donne potrebbe far rivedere le oscure regole di cooptazione nei CDA, cioè, o meglio, le quote rosa potrebbero far rivedere le oscure regole di cooptazione nei CDA. Non male anche questa riflessione. Siamo quasi in chiusura. Giuseppe Cruciani, di cosa ci parli stasera? Eccoci qui, parleremo della polemica innescata ieri con la sua partecipazione alla trasmissione di Fazio dall'amministratore delegato della Fiat Marchionne, ma ne parleremo soprattutto perché la politica è quasi unanime nel condannare le parole di Marchionne. Parleremo poi sempre delle polemiche intorno alla maggioranza sulla giustizia tra Fini e Berlusconi, eccetera eccetera. Benissimo, quindi Marchionne anche nella zanzara tra poco. E a chi ci scrive, ma perché le quote rosa non cominciano subito dalla politica? Come sapete, anche là, anche quella è stata una riflessione che si è fatta a lungo, per il momento non si è approdati a nulla, nemmeno per quanto riguarda le liste delle elezioni. Vedremo che cosa succederà sul fronte dei consigli d'amministrazione. Alle 18, 27 minuti e 20 secondi termina questa puntata di Focus Economia. Un ringraziamento a Mauro Del Corno in redazione, insieme a Barbara Bianchi e a Paolo Corleoni in regia. Da Simone Spezia l'augurio di una buona serata. Ci risentiamo domani dopo il GR delle 17. Radio 24. La passione si sente.